Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Noise. Questa sera è linea di basso, sostanzialmente parleremo del basso. E dopo, dopo che la settimana scorsa c'è stata una puntata dedicata al cinema, cioè un montaggio di brani, di spezzoni da film, che insomma ho lasciato parlare i film che hanno introdotto poi i vari pezzi, le varie canzoni, insomma sembra sia piaciuto, e quindi sicuramente riproporremo, e anzi addirittura ci sarà verso fine marzo, si spera, una puntata dedicata alle colonne sonore con chiaramente ospiti studio, insomma una puntata molto divertente. Ieri sera abbiamo fatto qualche prova e devo dire che sicuramente sarà una cosa carinissima. Siete in ascolto di Radio Noise come ogni lunedì sera alle 21.30. Radio Noise vi tiene compagnia per due ore fino alle 23.30 su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Solidi contatti, radionoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN. E poi Radio Noise Webcast, il profilo su Facebook. Ma come ogni lunedì sera, da qualche mese, da un paio di mesi a questa parte, noi facciamo sempre gli auguri a un personaggio, quindi nato in questo caso il 7 marzo del 1946. Nacque un personaggio fondamentale della storia della musica progressive e non so se è il caso di presentarli, forse in realtà non è il caso di presentarli perché non dovrebbero essere presentati. Comunque, nel 1946 nacque Peter Wolf, Matthew Fisher, tastierista e organista dei Procol Harum. E se non conoscete i Procol Harum, sicuramente conoscerete questo pezzo. The Eh sì, siamo partiti un pochino in sordina perché chiaramente abbiamo fatto gli auguri al tastierista dei Procolarum. Ma adesso passiamo a noi. Procolarum è un gruppo rock progressivo britannico degli anni 60, insomma, molto importante. Sicuramente questo pezzo lo conoscerete tutti, credo, perché è stato comunque utilizzato in un sacco di film, insomma, è una colonna sonora, è un pezzo molto importante di quel periodo e comunque è importante, insomma, è conosciutissimo anche oggi. E noi invece partiamo con la serata dedicata al basso, questa puntata Linea di Basso. Tra l'altro, rispetto a questo titolo è nato anche un qui pro quo, perché quando vengono postati gli articoli, diciamo, di riferimento alla puntata successiva su radionoise.wordpress.com, spesso e volentieri vengono inserite anche delle immagini. E nella maniera più grezza possibile le immagini vengono prese da Google, insomma, mettendo un nome. Allora, scrivendo basso, in questo caso sono venute fuori più fotografie di Cristina del Basso, che è stata una concorrente del Grande Fratello, piuttosto che di un basso, di uno strumento a quattro corde. Infatti è stato anche in maniera provocatoria inserita appunto la foto di Cristina del Basso e non di un basso. Ma vabbè, a parte questo, questa sera c'è un ospite, un musicista. Sei musicista, cioè. Sì. Grazie. No, prego, figurati. Che è un musicista, un bassista, diciamo, uno che prova a suonare il basso, quindi è stato raccolto al volo per le strade, è stato portato in studio per farmi un po' di compagnia e anche per darmi qualche indicazione anche dal punto di vista personale dell'approccio rispetto al basso. Devo dire che le tette di Cristina del Basso sono serissime, eh? Sì, le tette di Cristina del Basso saranno un 5 corde, quantomeno. Sì, anche 6. Anche se, ma poi avremo modo di parlare anche del basso, perché 5-6 corde, perché appunto diciamo la caratteristica, il basso in come? Che cosa? No, non lo so. Il basso? Concepito nella maniera originale, costituito da quattro corde. Poi però ci sono state chiaramente delle evoluzioni, ma avremo modo di parlare. Allora, voi che state ascoltando, collegatevi in chat. Se non vi siete collegati, intanto qualcuno sta arrivando in chat. Salutiamo Cleo, salutiamo Jijitsu, che è il ministero del network di transizione di fase, che però in questo momento non fiata, ma sicuramente starà ascoltando. E noi invece passiamo, iniziamo e ascoltiamo i primi pezzi. È un gruppo nel 1999 a New York, quattro personaggi. Vabbè, io non parlo perché c'è chiaramente un affetto particolare. Comunque, nel 1989 a New York, Page, Harry, Peter e John diedero vita a un gruppo che ha solo stile da offrire a tutti. Allora, erano gli Helmet con Like a Care da Aftertaste, album importantissimo di questo gruppo. Io non dico altro perché poi ne abbiamo parlato tante volte, ma poi sono completamente di parte per quanto riguarda gli Helmet. Ma questa sera perché linea di basso? In realtà è stata una decisione abbastanza presa estemporanea, nel senso che mentre cercavo di creare la playlist mi sono trovato davanti un paio di pezzi e ho detto bah, proviamo a fare questa cosa. Chiaramente non saranno canzoni di bassisti o di super fraseggi, super virtuosismi, ma ci saranno dei pezzi in cui il basso è abbastanza presente e si sente. Ma io chiedo chiaramente a colui che ha imbracciato il basso, innanzitutto, perché dal tuo punto di vista si decide di suonare il basso piuttosto che un altro strumento? Allora, nel mio caso perché mancava un bassista. Ecco, è la cosa più... Allora, comunque, tagliamo la domanda. Che comunque tiene sempre, perché non so tanto. Quindi diciamo che è una motivazione abbastanza attuale, anche se iniziava per me questa cosa, cioè risale a 10 anni fa. Per cui magari nel tempo uno dice è cambiato qualcosa. No, anche oggi i bassisti sono pochi, quindi così. Però in generale diciamo che il vero punto non è perché si inizia col basso. Magari si può iniziare col basso per tanti motivi. La cosa bella e affascinante è perché si continua col basso. Infatti, perché si continua col basso? Perché il basso è uno strumento che dà un sacco di soddisfazioni, soprattutto fisiche. Nel senso che è uno strumento che più che prendere la parte, diciamo, acustica, trasmette, diciamo, vibrazioni nel vero senso della parola, a livello meccanico, quindi di stomaco. Per cui è uno strumento molto molto confidenziale, molto molto carnale, se possiamo definirlo così. E quindi è uno strumento di pancia, per cui chi suona il basso solitamente entra in un mondo un po' particolare, fatto di tanti stimoli esterni, soprattutto meccanici, e non puoi chiamarlo, cioè il bassista ama le vibrazioni che il suo strumento produce. Poi per il resto è uno strumento che comunque, diciamo, ti appassiona, perché unisce la parte ritmica con quella melodica, cosa che regala ulteriori emozioni nel momento in cui in gruppo diciamo riesci a creare questo legame tra il chitarrista e il batterista. E quindi è uno strumento che, con le sue quattro corde, misere quattro corde, diciamo, è molto molto profondo e molto molto affascinante. Questo almeno è il mio modo di sentire e vivere il basso. Bene, allora adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, chiaramente, in cui il basso prevale. Loro sono sempre gli Helmet, questa qua è una cover spettacolare, secondo me. Questi erano sempre gli Helmet con un pezzo, Army of Me, che era di Bjork, dall'album Army of Me di Bjork, dall'album del 1995, il secondo album solista che si chiama Post, che poi tra l'altro è stato inserito anche nella colonna sonora di Tank Girl, che era un film insomma dedicato al personaggio, quindi Tank Girl era un fumetto, fumetto, sì, esatto, un personaggio fumettistico. E tra il pezzo, però, questo qua, questa cover degli Helmet, fatta dagli Helmet, è stata poi pubblicata in un disco che è Music for Our Mother Ocean, che è una compilation benefit. E questo anche per dire che chiaramente quando si pensa in alcuni casi alla presenza magari molto forte di un basso, ci viene in mente soprattutto i suoni un po' più funkeggianti in cui il basso è presente, dà il ritmo, da tutto quanto, insomma, il mood del pezzo, però in realtà ci sono delle situazioni in cui il basso può anche dare una sua presenza, mantenendo insomma la sua caratteristica un po' più psichedelia. Questa sì, era tutta psichedelia, anche perché il pezzo proprio di Bjork, Army of Me, è un pezzo abbastanza psichedelico, nel senso che loro il mood del pezzo l'hanno mantenuto, perché fondamentalmente quello originale è così, cioè non hanno variato molto, però hanno dato chiaramente la loro impronta un po' più noise, un po' più rockettara, con distorsioni, perché il pezzo originale è più elettronico, come è consueto chiaramente per Bjork utilizzare determinati stili. 21.55, sempre sempre in ascolti Radio Noise, serata dedicata a linea di basso. Tu stavi parlando del tuo rapporto intimo con il basso e di quello che dà il basso. Sì. Ma c'è anche una componente, come dire, di all'interno del gruppo il basso crea un sottogruppo. Beh, all'interno del gruppo sicuramente il basso dà una certa completezza, un po' come lo danno tutti gli strumenti, però c'è da dire che il basso è una componente abbastanza particolare, nel senso che in determinati generi musicali non se ne può fare a meno. E l'esperimento, diciamo, più crudo che potete provare è, se avete un qualsiasi equalizzatore, è sentire una qualsiasi canzone ed eliminare il basso. Vi sembra di ascoltare, eliminare diciamo le basse frequenze. A quel punto vi sembra di ascoltare qualcosa di vuoto, di piatto, qualcosa che vi dà la sensazione che deve sempre iniziare, deve ancora iniziare. Poi mettete il basso e tutta questa lacuna, diciamo, che non ascoltate, viene fuori. Per cui, diciamo, il basso è un elemento portante, ritmico e melodico, ma soprattutto di profondità e di dinamica del suono. E quindi anche lì, diciamo, si capisce la sua quanto è indispensabile come strumento nei generi musicali. Poi ovviamente sono alcuni generi che si basano sul basso, come per esempio tutta l'elettronica, la dance, qualsiasi cosa che diciamo si impernia sul groove, sul ritmo. Lì il basso non se ne può fare assolutamente a meno. Qualsiasi cosa derivi dal funky, qualsiasi sonorità venga, diciamo, derivi dalla dance, per esempio la dance anni 70, si basa sul basso, e il basso è l'elemento portante per eccellenza di quei generi musicali. E quindi diciamo che poi in ogni genere c'è il suo motivo di importanza, il basso. Per il resto, come già detto, è uno strumento che dà un sacco di soddisfazione e comunica molto a livello fisico, e per cui soprattutto sia chi lo ascolta che chi lo suona è molto molto provato e affascinato da questo. Nirvana, Blue. We'll be right back. primo pezzo tratto dal disco Bleach, il primo disco dei Nirvana. Sono fermati alla fine degli anni 90 e dei Nirvana in realtà c'è poco da dire. Diciamo la metà degli anni 90. Cosa? Si sono fermati. Formati. Ah, formati. Formati. Fine degli anni 80. Sì, fine degli anni 80, 1987, questo disco che il primo risale all'anno, io poi mi dimentico, 1989 in realtà, quindi proprio 89, esatto. Un poco prima degli anni 90, in cui uscì tra l'altro nel 1989 Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, quindi si creò questo parallelismo, iniziò questo parallelismo tra l'anti-macho, l'anti-eroe che era Kurt Cobain, invece gli eroi sessisti, rocchettari, devastanti che erano i Guns N' Roses, steppisti fondamentalmente. 22.02 minuti, siete sempre in ascolto di Radio Noize, questa sarà lezione di basso. Radio Noize @hotmail.it per raggiungere il contatto MSN, Radio Noize Webcast, il profilo su Facebook per raggiungerci. Queste mi vengono benissimo, sempre, sempre. Riguardo al basso, non abbiamo detto che il basso, cioè il basso elettrico, quello che comunemente si intende come basso. Guarda, lo stavo proprio per introdurre questo, ecco. vedi che viene, ci capiamo subito. Viene introdotto più o meno, mi sembra, negli anni 50, da il primo basso elettrico proprio ad opera di Leo Fender. 1951. 51, infatti, esiste, e dato che possiamo dirlo che il primo basso elettrico fu proprio un Fender Precision, e appunto esiste un modello di questo basso che si chiama appunto 51, e ovviamente era il primo progetto grezzo di basso elettrico che diciamo era un contrabbasso elettrificato, come ogni strumento che diciamo è nato nella storia della musica, è passato nella sua fase vitale prima per lo come strumento acustico e dopo è diventato elettrico. E anche per il basso la stessa cosa, il basso elettrico è una rivisitazione del contrabbasso che era comunque acustico a quei tempi, poi adesso esistono anche i contrabbassi elettrici microfonati, appunto, così. Però il primo basso fu appunto il Fender Precision, progettato da Leo Fender proprio per uniformare quella che era, diciamo, la caratteristica nascente delle nuove chitarre elettriche e con le frequenze basse, e quindi è nato il basso ad opera di Leo Fender, e quindi questa, diciamo, è la sua storia. Poi nel tempo si sono, soprattutto per esperienza, per album registrati che sono diventati album storici, registrazioni storiche, si sono creati, diciamo, degli accoppiamenti come dire, essenziali del basso. Per esempio, parecchi bassisti vedono nel basso perfetto appunto il Fender Precision abbinato ad un amplificatore Ampeg valvolare che satura, suonato col plettro, e la morte dello strumento. E queste, diciamo, sono quelle cose che secondo me dureranno per sempre nel tempo, perché prendete un Precision collegato ad un Ampeg, metteteli in saturazione, prendete il plettro e cominciate a picchiare sulle corde, viene fuori qualcosa di molto molto rock and roll. E quindi questo è il lato, diciamo, storico. Vabbè, poi ci darai anche delle lezioni, qualche scala per quanto riguarda i bassi, sì, per un po' imparare, per chi sta ascoltando e magari vuole imparare a suonare il basso. Anche se il tuo perché non volevo ma andiamo avanti e continuiamo, anche perché poi ci sono un paio di cose da dire al di là che vanno fuori, diciamo, la tematica, perché adesso Radio Noize piano piano si sta trasformando anche in una radio ANSA, per cui dà anche delle notizie, da una radio giornalistica, per cui anche dà delle notizie magari su cui c'è da pensare un po' di più. Vabbè, noi continuiamo, loro sono i Korn e questo è Ball Tongue. begging. Yes, I know you're a person. A person close to me. Who do you think you are? What more do you want from me? You got my thoughts up and taken by me. Loro erano i Korn con Bolt Tongue, tratto dal primo album, appunto l'omonimo Korn. E detto anche, tra l'altro, neanche a farlo apposta, nel senso che in realtà è stato deciso di mettere i Korn proprio per tenere un filo conduttore riguardo all'argomento di questa sera. Vabbè, cazzate manovella su Radio Noise. E detto anche, il gruppo fu identificato anche come gruppo groove metal, e se noi andiamo a capire un po' con la parola groove, significa innanzitutto una serie ritmica che si ripete ciclicamente, tipo un riff, però viene utilizzato, significa anche in inglese, il verbo significa to groove, significa divertirsi intensamente, ma è anche la traduzione letterale e significa solco, in ambito musicale indica il solco che viene fatto sul vinile, e venne utilizzato questo tipo di termine nella black music per indicare appunto un portamento del ritmo tipico di alcuni generi come il funk. Come dicevo prima, chiaramente cioè, è quasi scontato pensare al funk nel momento in cui si parla di basso presente e preponderante. Però loro, i Korn, furono anche per cercare di dare un'etichetta di tipo, un'etichetta insomma per identificarli dal punto di vista musicale, vennero anche chiamati gruppo groove metal, appunto perché il basso, che comunque è molto presente, non ha quella caratteristica tipica del basso funky, ma va ad aumentare fondamentalmente le battute della batteria, a creare appunto anche, diciamo, questo solco, sì, all'interno, infatti, proprio dei pezzi costruiti. Nei corn il basso è molto basso, innanzitutto. Dire a chi magari non ha mai approfondito questo discorso, chi non se ne intende, diciamo che i corn, il bassista dei corn ha un modo tutto suo, originale, assolutamente originale, di interpretare lo strumento basso. Infatti si parte da un'accordatura estremamente abbassata, tale da abbracciare delle frequenze che a malapena sono udibili dall'orecchio, ma sono più che altro, appunto, come riagganciandomi al discorso che facevo prima, sono frequenze che si sentono di stomaco, e quindi questo non fa altro che passare sempre più dalla parte percussiva invece che da quella melodica. E proprio questa è stata la caratteristica dei Korn. Il bassista dei Korn ha un modo tutto suo di toccare e far vibrare le corde del basso, è proprio percussivo, cioè il basso viene interpretato nuovamente come uno strumento percussivo invece che melodico. E questo, ovviamente, diciamo, per i bassisti che poco masticano questo verbo, diciamo, è stata una vera e propria rivoluzione. Tra l'altro lui utilizza la tecnica dello slap, cioè che è il modo di sbattere col pollice fondamentalmente sulle corde, però viene fatto sulla parte del manico. Lui invece lo utilizza quasi sul corpo, dove ci sono, diciamo, magneti che prendono il suono. Quindi lui ha proprio un movimento di polso tale da alternare battiti di pollice e dei polpastrelli delle varie dita, creando proprio dei disegni ritmici proprio grazie al movimento del polso, alla rotazione alternata del polso. E ovviamente tutto questo si ripercuote in quello che poi dall'amplificatore fuoriesce, quindi si sentono delle cose inascoltate, inedite. E allora noi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo. Loro sono sempre i Korn, e questa è Swallow. I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Punk ass sissy, I'm a freak. Gorn, Life is Peachy. Da Life is Peachy, questo era Swallow, che significa letteralmente sopportare, soffrire. Io non l'ho messa a caso perché riguarda, diciamo, il periodo odierno, in quello che sta succedendo in questi giorni, perché chiaramente stiamo soffrendo quello che sta capitando per mano di una sola persona giù un po' più a sud, senza avere troppi riferimenti. Dove? No, non lo do i riferimenti perché si capisce, è chiaro, no? Sì, ma diciamo che è una zona regionale, mondiale più vasta, quella in cui sta qualcosa. Per mano di un uomo sopportiamo e soffriamo, per mano di una sola persona. Purtroppo sì. È così, e ci spegniamo lentamente su questa cosa. 22:18 minuti e non diciamo altro, non vogliamo in realtà polemizzare, no? Non ci interessa. Beh, c'è poco momento da polemizzare. Non c'è molto da dire. C'è da insorgere. Qualcuno l'ha già fatto, anzi. La maggioranza forse silenziosa. Molti hanno pagato l'insurrezione. Noi qua abbiamo la maggioranza silenziosa invece, come dici. Sì, sì. No, ma l'Italia è silenziosa in generale, cioè. 22:18 minuti, siete sempre in ascolto di Radio Noise, linea di basso dedicata al basso, e andiamo sempre più in basso. Moriremo nel silenzio, andiamo sempre più in basso socialmente parlando. Rancid, Out of Control. E passando dal metal arriviamo al punk, arriviamo anche nella tua zona, perché i Rancid con Out of Control da Indestructible, sì, del 2003. È strano parlare di basso in ambito punk, invece i Rancid sono, diciamo, la controprova che in alcuni casi è possibile, perché comunque il bassista dei Rancid è stato un altro che ha interpretato in maniera preponderante, diciamo, lo stile bassistico nel genere punk. E parecchi pezzi dei Rancid iniziano, hanno delle zone centrali in cui il primo strumento di risalto è proprio il basso, e raramente sono presenti degli assoli di chitarra, ma molto spesso negli album dei Rancid sono presenti assoli di basso, e lui è proprio isterico, il bassista dei Rancid, e si chiama Matt Freeman. È veramente isterico nel suo modo di suonare il basso, cioè praticamente arricchisce le scale di mille passaggi che vanno a disegnare delle linee veramente divertenti, in linea con tutto il sound del gruppo. Però poi il suono è qualcosa di particolarissimo, perché è proprio grezzo, metallico, e sembra quasi, diciamo, un basso. Dà proprio l'idea di basso imbracciato e collegato all'amplificatore, volume a manetta e via. E poi tutte dita infiammate proprio. E quindi voto 10 per i Rancid. Voto 10 per i Rancid, voto 10 per la tua descrizione precisa, puntuale, nel minuto in 40 dei Rancid. Continuiamo un po' su punk ancora, quindi significa punk ancora. Loro sono i Sicko Vittol, questo è Pezzi. Erano i Sicko Vittol con Just a Pezzi da Call to Arms. Questo è un altro gruppo punk hardcore degli anni 90, formatisi alla fine degli anni 80, New York hardcore, quindi un pezzo importante della scena punk hardcore. Io tra l'altro poi ci sono, per quanto riguarda quindi l'approccio con il basso, ci sono poi anche degli altri modi di approcciare con il basso, quindi utilizzarlo in virtuosismi quasi come se fosse una chitarra. C'è chi addirittura lo utilizza come per creare assoli, come se fosse un chitarrista, e da lì poi nasce anche l'esigenza di aumentare le corde del basso, che sono quattro, e farlo diventare poi fondamentalmente una chitarra. Beh sì, tutto il filone che è iniziato col jazz, la fusion moderna, utilizza, diciamo, il basso come uno strumento molto molto libero, e tendono, così come si è abituati ad ascoltare assoli chitarristici, si ascoltano assoli di basso, oppure la tecnica dello slap, del tapping, e via dicendo. Ovviamente, come dicevi tu, la necessità di camminare sui vari registri, di passare dei registri bassi di ottava a dei registri alti, libertà indispensabile, diciamo, negli assoli, ha portato al progetto, diciamo, e alla necessità di bassi a pluricorde, più di quattro corde, quindi bassa a cinque corde, che ha una corda in giù più bassa. Ovviamente non è soltanto la scalatura della corda bassa, ma anche il fatto che la corda più alta, più acuta del basso a cinque corde è comunque timbricamente più elevata di un basso a quattro corde, perché ovviamente la scalatura delle corde parte da corde più sottili e poi dopo basso a sei corde, sette, otto corde vengono utilizzati appunto per virtuosismi soprattutto. Capacità tecnica non indifferente per suonare determinati strumenti, quantomeno per farli suonare bene e via. Questo ovviamente nella storia e nell'evoluzione di ogni strumento è naturale che avvenga nel corso degli anni. Comunque il basso è uno strumento recentissimo, se pensiamo che ha soltanto 60 anni. Quello elettrico, sì. Quello elettrico, sì, chiaramente. Recente, diciamo. Noi invece ci affidiamo però questa sera alle sole quattro corde, fondamentalmente, perché lo prendiamo così come è nato e ce lo teniamo ben caro e ben stretto, perché il basso è a quattro corde. Skunk and Nancy, Twisted. Let Skank and Nancy con Twisted, capitanate dalla carismatica Skin. Loro sono degli inglesi e Skank and Nancy poi è il nome, deriva da Anansi che è un ragno del West Africa. Tra l'altro ci sono anche delle storie, diciamo, delle leggende rispetto a questo tipo di ragno, perché è considerato un ragno molto intelligente, quindi ci sono queste storie e leggende per quanto riguarda l'uomo ragno, appunto Anansi, che sarebbe poi un uomo ragno, insomma, vabbè, queste sono le leggende metropolitane, ma in questo caso leggende tribali. E poi Skank, perché è stato messo per dare, insomma, un suono un po'... per rendere il nome un pochino più accattivante, no? Con questo termine skunk che rimanda chiaramente a una tipologia di piante, di vegetali, quindi c'è questo miscuglio. Anche se in realtà però ci sono anche delle leggende per quanto riguarda delle leggende per quanto riguarda un fantasma. Tra l'altro si diceva all'inizio, forse nella registrazione del primo disco, che fosse registrato in un castello in Inghilterra in cui c'era questo fantasma Anansi che aleggiava durante la registrazione, insomma, tutte queste cose qua, però poi stai a vedere quello che è vero. Skank and Nancy che ancora sono in attività, e io posso garantire anche una loro presenza scenica veramente forte, perché ho avuto la possibilità di vederli dal vivo l'anno scorso e non vedevo un salto da una balaustra laterale, insomma, dello stadio, scusa perché mi mancano le parole, non vedevo un salto in mezzo al pubblico da un po' di anni, e lei ha fatto questo, si è buttata, ha eluso la security che stava cercando di trattenerla dai pantaloni, si è lanciata in mezzo al pubblico. Chiaramente c'è stata un'ovazione incredibile mentre loro suonavano, tra l'altro dei musicisti veramente forti e bravi, e il bassista, che adesso non mi ricordo il Mark, è tra l'altro un bassista veramente bravo, anche se utilizza il basso nella maniera più grezza possibile, in realtà, perché sì, non sono dei giri complicatissimi, ha una tecnica, però ha un tocco, lui suona con le dita, tra l'altro. Sì, no, ma è molto riempitiva. Ci piacciono gli Skank and Nancy, chiaramente un omaggio anche alle donne, visto che ci avviciniamo alla festa dell'8 marzo dedicato alle donne. Quindi facciamo questa cosa molto politically correct. 22:35, sempre in ascolto di Radio Noise. Noi andiamo avanti e ascoltiamo ancora un poco di bellissima, bellissima musica. Loro sono The Ataris, questo è Teenage Riot. Qua è da ballare, in realtà. We'll be right back. un bel palloncino colorato. E ci sono anche lo zucchero filato, la cioccolata, le nostre e tante altre sorprese qui sotto. E tanti palloncini di tutti i colori. E galleggiano? Oh, sì. Certo che galleggiano. Galleggiano tutti. E anche tu se verrai qua giù con me, galleggerai. Tornati in studio dopo che è passata appena un'ora, 22:39 minuti, dopo aver ascoltato The Ataris con Teenage Riot. È un pezzo in realtà molto allegro, niente di pretenzioso, però c'è questo giro di basso che è in stile, perfettamente in stile punk. Volevo correggermi per quanto riguarda il nome del bassista, che è Cass, scritto così, non so se si pronuncia Cass o Cass o una cosa del genere. È la cosa bella degli Scancanensi, anche per farvi capire la loro potenza, la loro bravura e anche la loro fama, è che il 2 e il 3 aprile del 2009 fecero due show al Montowether Rats, che è a Londra, sotto il nome Scam, cioè che era chiaramente le iniziali dei nomi Skin, Cass, Ace e Mark. E fu sold out in soltanto 20 minuti. Cioè, quindi voi immaginatevi in 20 minuti creare un sold out. Quindi che cosa significa? Beh, è una bella soddisfazione, indubbiamente. Una bella soddisfazione. Suonarono, se non sbaglio, suonarono anche a Sanremo un anno, quindi voglio dire. Sì. Beh, sono stati ospiti anche in Italia diverse volte in programmi televisivi. Sì. Beh, sì, dopo sì, loro fanno tono molto molto radiofonico, molto melodico. Poi chiaramente la voce di Skin, la voce è qualcosa di molto coinvolgente, quindi forte, potente e coinvolgente. Sì. No, vabbè, uno di quei gruppi riusciti che riesce a mettere insieme sia, diciamo, gusto musicale che delle sonorità e una voce molto molto ricercata e bella, proprio nel vero senso della parola. Tra l'altro sono anche adesso sono 16 anni che sono insieme, perché il primo disco risale al settembre del 1995, quindi voglio dire, anche un merito, sono sempre gli stessi. Tra l'altro c'è stato un periodo in cui chiaramente si erano un poco fermati, le sono un po' staccate, aveva fatto un disco singolo, però comunque vabbè, quello ci sta, voglio dire, anche nei migliori matrimoni ci sono le pause, quindi sì, certo, è normale. A proposito di bassi, è l'altra parte, diciamo, del basso utilizzato in maniera virtuosa, anche super tecnica, di cui noi non ascolteremo niente perché non siamo di quella frangia. Però c'è, a proposito, perché poi chiaramente i bassisti virtuosi che utilizzano il basso anche con più corde, perché forse poi si sentono, forse probabilmente anche loro avevano imbracciato il basso perché mancava il bassista nel gruppo, però si sentono poi un po' minori, allora utilizzano, aumentano le corde del basso, lo utilizzano come chitarra. Un disco che è El Bass Beaters, che è un debut album del bassista degli Halloween, che coinvolse una serie di bassisti importantissimi, di Mr. Big, Steve Vai, Dio, Quiet Riot, eccetera eccetera, e praticamente ha unito questi bassisti, ha creato 14 pezzi. Io vi consiglio di ascoltarlo, perché il gruppo si chiama Bass Invaders e l'album è El Bass Beaters, e vi consiglio di ascoltarlo perché ci sono delle opinioni contrastanti, nel senso che per alcuni fa schifo, assolutamente schifo, per altri invece è bellissimo. E detto questo, Faith No More, We Care A Lot. We care a lot. Tra l'altro il basso elettrico creato da Leo Fender fu anche creato per cercare di dare come detto prima, un supporto alla chitarra e renderlo anche trasportabile, cioè in relazione alla funzione che aveva prima il contrabbasso, cioè sì, quella di basso, che poi tra l'altro il contrabbasso veniva, cioè le stesse quattro corde con la stessa intonazione del basso elettrico, però è della famiglia delle viole, insomma un grande violino che però sì, viene utilizzato con l'archetto come se fosse quasi una chitarra, quindi c'è questa contrapposizione, cioè prendere dal contrabbasso degli elementi fondamentali per poi far diventare un altro strumento, anche sia per esigenze di tipo musicale, insomma come accompagnamento, ma anche esigenze pratiche, cioè per renderlo chiaramente più trasportabile sì, rispetto dopo, a ovviamente nascendo in quel periodo cioè poiché c'era una fioritura molto molto diffusa di band che giravano in tour con un piccolo furgoncino, c'era anche necessità logistiche, diciamo, e quindi è nato per esigenze puramente rock and roll il basso elettrico. Anche perché negli anni 50 siamo nel periodo del rockabilly, anche in cui chiaramente sì, iniziava ad essere utilizzato il contrabbasso come basso, però chiaramente sì, sì, sì, con sì, sì, le difficoltà tecniche del caso, appunto sì, del trasporto. Anche se oggi in quel genere lì continua ad essere più usato il contrabbasso, proprio per una questione di un feeling diverso. Sì, diciamo, anche perché non c'è innovazione in realtà nel rockabilly, no, ma è qualcosa che viene ripreso, quindi chiaramente riprendi i suoni, sì, possibilmente i suoni che erano degli anni 50. 22:48, noi continuiamo, e visto che arriveranno in Italia a giugno, faranno due date, noi dedichiamo, chiaramente li salutiamo con questo pezzo, Primus. Thank you. Allora, noi abbiamo messo questo pezzo perché chiaramente i Primus saranno per la prima volta in Italia il 26 giugno a Vigevano e il 27 giugno all'Atlantico a Roma, tra l'altro con la formazione iniziale, insomma, perché il batterista, che era uscito nel 1989, è poi tornato e loro si sono fermati in realtà, anche se la formazione originale loro hanno nell'89 iniziato nell'89, è uscito 20 anni fa, cioè, praticamente, voglio dire, è uscito 20 anni fa, si è, vabbè, è andato a comprare sigarette, ah, è sì, tornato, okay. Loro hanno pubblicato il di primo contrabbando album, sicuro di contrabbando, è andata storta per forza, perché 20 anni c'è, cioè, di contrabbando, sì, sicuro. Hanno pubblicato il loro album, primo album, nel 1990, Frizzy Fly, e poi sono fermati con Antipop nel 99. Però adesso escono con un nuovo album e c'è questo nuovo tour. Luglio, diciamo, mese di luglio, agosto in Canada e Stati Uniti, però in Italia saranno 26 giugno a Vigevano al festival 10 giorni suonati e poi all'Atlantico a Roma. Quindi io vi consiglio assolutamente di andare a vederli perché meritano. E poi voglio dire, stessa formazione con il batterista che era uscito nell'89 e poi è rientrato qualche anno fa, insomma, voglio dire, non è una cosa da tutti i giorni. E poi chiaramente sicuramente uno spettacolo incredibile, perché al di là della loro capacità tecnica hanno anche una presenza scenica e scenografica non da poco. Grande, noi vogliamo salutare, sì, la grande Les Claypool. Noi vogliamo salutare Niki Naki, che è appena entrata in chat. Ricambio il saluto affettuoso di Niki Naki. Sì, ricambiamo il... A parte questo nome ridicolo. Sì, a parte questo nome ridicolo, però finalmente a me è servito per capire chi si celava dietro questo nickname. Adesso si dice così. Ma perché Niki Naki? Noi ti chiediamo, Niki Naki, e ci ascoltiamo mentre... Te lo chiediamo, c'è un po' di disturbo, ci ascoltiamo un altro pezzo, sono sempre i Primus. Primus, c'eravamo un attimo distratti perché noi ci stiamo chiedendo chi sia Niki Naki. A questo punto Niki Naki ha ragione a tutti gli strati, Niki Naki, e non c'è bisogno che ti annachi. Niki Naki, ci pensi mentre cachi, Niki Naki. Su questo chi sei, Niki Naki? Su questo veramente non sappiamo che cosa dire, perché non c'è niente da dire, cioè. Ci chiediamo, quindi c'eravamo un attimo distratti. 23.00 in questo minuto, sempre in ascolto di Radio Noise. Stasera devo dire che la chat tace, quindi stanno ascoltando in religioso silenzio. Però va bene. E stavo dicendo prima all'inizio che stiamo organizzando per fine marzo una puntata dedicata alle colonne sonore con ospiti studio, quindi io vi consiglio, poi chiaramente ci sarà fatto il flyer, e tra l'altro volevo ringraziare per il nuovo flyer, per il nuovo logo, locandina, come volete chiamare voi, fatta per Radio Noise, la potete vedere sul profilo Facebook, ma adesso verrà messa anche su radionoise.wordpress.com. È una veramente una bella locandina, ti piace? Sì, abbastanza. Fa piacere. È una cosa semplice da domenica pomeriggio. Da domenica pomeriggio, esatto. Cotta e mangiata. Cotta e mangiata. Qui è la pubblicità occulta. Va. Radio Noise @hotmail.it per aggiungere il contatto MSN. E noi stasera che parliamo di bassi, in realtà poi la parte giornalistica è stata messa da parte, quindi delle notizie estere e esterne, diciamo, rispetto allo studio di Radio Noise non ci interessa niente questa sera. No, va bene, a te va bene. Va bene uguale, tanto comunque va bene. Comunque va bene, no, è poi brutto domani però ci così. Informiamo, nel senso, è brutto dire così. Non saranno queste 2 ore di abbandono che causeranno la nostra ignoranza, su. E allora, come dicono i Rage Against the Machine, noi siamo calm like a bomb. Ti è piaciuto questo? Sì. On feel the funk blast. What you say? will be, and a right to kill. There's a mass without roots, there's a prison to fill. There's a country soul that reads post no bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. Cause there's a right to obey, and there's the right to kill. Dopo essersi formati un po' di... cioè, un po', dopo essersi sciolti un po' di anni fa, poi Rage Against the Machine in realtà si sono riformati, che la loro dichiarazione riguardo, che è rimasta abbastanza storica e ha lasciato basiti un po' tutti, era che, essendo un gruppo abbastanza politicizzato, dichiaratamente, quindi politicizzato nei testi, nei loro atteggiamenti, nelle loro manifestazioni, avevano dichiarato che, fatto il terzo album, il loro messaggio politico era stato lanciato, era stato dato, quindi non aveva più senso per loro continuare. Poi quindi sono sciolti e hanno tre quarti loro hanno formato gli Audioslave, quella grandissima operazione commerciale, brutta operazione commerciale, insieme a Chris Cornell e Soundgarden. Poi in realtà si sono riformati nel 2007 e hanno fatto soltanto qualche show, qualche concerto, e sembra però c'è stata una dichiarazione più o meno verso dicembre del cantante Zack De La Rocha, che ha detto che stanno lavorando al nuovo album che dovrebbe uscire appunto. Beh, in quest'anno è una cosa non si sa quando, però c'è da dire anche che Don Morello, il chitarrista, ha in realtà poi collaborato nel frattempo con gli Street Sweeper Social Club, con Boots Riley dei Coop, e poi ha collaborato anche con Steve Earle e i Cypress Hill, quindi Ben Harper anche. Quindi in realtà lui della collaborazione ha fatto, nel frattempo lui comunque ha lavorato, però sembra stiano facendo scrivendo un album, non si sa. Noi chiaramente li aspettiamo molto con curiosi, anche perché chissà se sono gli stessi degli anni 90. Beh, proprio la curiosità è proprio quella di sentire cosa proporranno. Soprattutto visti i tre quarti dei Rage Against the Machine, quando hanno fatto gli Audioslave, quando hanno creato gli Audioslave, che sembra, io ho sempre detto, sembravano i Rage Against the Machine frenati, con un freno sopra. Quindi chissà se hanno mantenuto quel mood, manterranno quello stile oppure no. E dopo che Niki Naki ha dato questa filastrocca, ha scritto questa filastrocca, poi non si è più pronunciato / a questo punto, e noi allora ascoltiamo un altro pezzo, perché sono le 23:10 e mancano soltanto 20 minuti alla fine di questa centesima puntata di Radio 20 minuti. Ecco. Dicevi? A proposito di questo, io dovrò riguardare il calendario, però ci stiamo avvicinando al compleanno di Radio Noise. Ah, ecco. Perché ad aprile, dovrebbe essere l'11 aprile, se non erro, ma devo ricontrollare Insomma, Radio Noise farà un anno insieme anche a Transizione di Fase, che in realtà compie un anno il 4 aprile. Quindi, insomma, si preparano grandi festeggiamenti per quel periodo. Okay. Creerò, insomma, uno studio con una trentina di persone. La Madonna. Dai, ci può stare, una trentina di persone, faremo festa! E festa sarà, insomma. Vabbè, ma andiamo avanti, Limp Bizkit. Just think about it. I love to be the one to disappoint you when I don't fall down. But you don't know-it-all, and I guess things will never change. But you might need my hand when falling in your hole. Your disposition, I'll remember when I'm letting go of you and me. We're through. Federico Polvere, ah, Fred Dust al secolo, Federico Polvere, cantante di Limp Bizkit. E che poi mi sono dimenticato, no, perché abbiamo visto una foto di un invecchiatissimo, del 2008, di un invecchiatissimo Fred Durst. E poi ci dicevamo anche che in realtà sono tutti uguali. Sì. Perché non ricordavo il nome del bassista che negli anni ha imparato a suonare il basso, in realtà, perché all'inizio era veramente abbastanza pessimo. Sì? Sì, poi ha imparato a suonare il basso Sam Rivers, che è uguale a John Otto, che è uguale a Fred Durst. Cioè, quindi tre quarti sono identici. Hanno annunciato il loro rientro nel 2009. E poi boh, nel frate West Borland ci hanno provato. Poi Gold Cobra. Gold Cobra? Il disco. Quale? Dei Limp Bizkit. Quale? Con intenzione di pubblicare nell'estate del 2010. Ah, perché si sa prima il nome del disco, prima che esistano i... L'aveva annunciato Si chiamava Gold Cobra. E poi dove uscire? Tra l'altro tamarrissimo come titolo. Sì, sì, vabbè. C'è il Cobra d'oro, cioè. Il Cobra d'oro. Ma vabbè, uno che si chiama Federico Polvere, che cosa ti aspetti? Voglio dire, non ti aspetti assolutamente niente. E noi siamo arrivati quasi alla fine, quindi ascoltiamo gli ultimi pezzi, così in scioltezza. Bene. E soprattutto ascoltiamo un pezzo, secondo me, bellissimo. Un minuto e 47 di pura poesia. Pezzo pieno di intenti positivissimi, devo dire. Tante belle parole. Sì, tante... Vabbè, ma i Red Chili Peppers sono sempre stati famosi, insomma, per la loro eleganza, per la loro eleganza in tutti i sensi, cioè suonavano nudi, così, ma si infilavano un calzino. Sì. Vabbè. Beh, cioè, se proprio la vuoi fare nuda, basta, senza nuda. Beh, però ha scritto un pezzo con una corda del batto. Vabbè, lo sanno fare tutti. Ma questo per dare ai mostri sacri che suonano le 12 corde del basso. Sì. Per dire, guarda che cosa ti sbatto. Là lo registro pure e piace, anche perché lo suonano anche dal vivo spessissimo. Quindi, insomma, mica una cosa da poco. Vabbè, no, loro sono stravaganti, si sa. Sono molto stravaganti. Vabbè, ce l'ascoltiamo un singolo, così poi chiudiamo. Perché devo dire, c'è anche una stanchezza. Quale pezzo? Vabbè, un classico. Dei Red Hot. Eh sì, è il classico. Dai. E andiamo. Stiamo qui a cercare di continuare a dire Give away now. Bravo, sei bravissimo. 23-25 minuti, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Noise. Marley, walkie, like talkie. Bravo, vedi com'è bravo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Noise. Grazie a tutti di essere stati in ascolto. Anche se non siete entrati in chat questa sera, ci avete un po' deluso. Ci avete un po' deluso, però... Va bene, non fa niente. L'importante è che, insomma, ogni lunedì, quando Radio Noise, ogni maledetto lunedì, si presenta a disturbare le vostre frequenze. Ehi. No, non sei 33 non è l'età. Chi stai cantando? No, e non ho... Poi te lo farò sentire. A me, personalmente. Sì, vabbè, mo non siamo... Non è il caso. Ma tu ci dovevi dare l'indicazione di qualche scala pentatonica così. Quale scala pentatonica? Su qualche scala per il basso per imparare a suonare, insomma. Ma quale scala? Ma dai, due o tre consigli così al volo per imparare a suonare, cioè per avere un buon approccio sul basso. Io sono, credo di essere un po' ubriaco in questo momento. Ho avuto un attimo uno svariato, però vai. No, ma boh, non lo so, io posso parlare della mia esperienza, diciamo da quasi 11 anni che ho abbracciato il basso. 11 anni davvero, non l'avrei mai detto. Quasi 11 anni. Mamma mia. 10 anni e mezzo. Lo sai che forse sto dicendo una grande cavolata? Perché sto dicendo una cavolata. Siamo al 2011. Sono 11 anni e mezzo. Vabbè, panne sbagliate. Vabbè, no, no. Grande cavolata, hai detto 11, voglio dire, non è che... No, avevo detto 10 ah, e mezzo. Invece siamo quasi a 12 anni. E non sentirseli. Sì, perché tutto è iniziato nel 98 o 99. Lo sai che non ricordo. Quando tu andavi a scuola con la tua merendina. Sì. E anche adesso me la porto un po' ovunque la mia merendina. stavamo parlando di pentatoniche. A questo punto è tutto svanito. Prendete il basso e suonatelo. Il mio approccio è stato all'inizio da completo autodidatta. È stato quello di ascoltare un sacco di linee di basso e cercare di riprodurle. E poi capire che differenza c'era nei vari generi, come veniva affrontato. E quindi da là ho iniziato a capire con le mani sullo strumento, andando a coprire determinate scale, quali erano le differenze melodiche che ne venivano fuori. Poi per il resto io non sono assolutamente un tecnico dello strumento, quindi so poco di teoria musicale. Quello è l'approccio blues, diciamo. Sì, no, ma diciamo che io ho, vedi, un musicista molto famoso è il... mi sa dei... non ricordo se il chitarrista, forse il chitarrista dei King Crimson... Ha detto testuali parole: la musica è lì che scorre, è un flusso che scorre, tu lo devi solo prendere. Quindi io ho sempre avuto questo approccio, diciamo, cerebrale, no? Nei confronti della musica. Cioè io mi immagino quello che voglio suonare. Quindi difficilmente in questi 11 anni mi sono fatto dettare le leggi dalla teoria musicale. Ovviamente può essere un grande errore, come può essere un pregio. Io l'ho affrontata così, anche perché lo strumento è una cosa libera, ognuno l'affronta come vuole. Poi gli obiettivi, i risultati saranno quelli che saranno. Però io ho assecondato questa filosofia di captare quel flusso, di prendere quello che uno ha in mente e metterlo sullo strumento. Dopodiché, affrontata diciamo una certa base tecnica, tutti sono capaci di prendere questo flusso e trasformarlo in musica. Se ce l'hanno il flusso, ovviamente lo prendono. E quindi questo è stato il mio approccio, senza scale, senza niente. Quello che passava nella mia mente, quello cercavo di riprodurre al di fuori col basso. Il basso era solo uno strumento appunto uno strumento per mettere in musica e far, diciamo, colorare nel tempo quello che mi passava nella mente. Io uso il basso come una matita, disegno nel tempo. Allora, prendetela come viene, fondamentalmente. Prendete il basso, imbracciatelo. Anche perché qua sta a spiegare una pentatonica senza, no, senza nemmeno una tastiera davanti, senza niente. Chiaramente scherzavo. Mi sembra abbastanza inutile, quindi l'abbiamo affrontata era filosoficamente. Anche, era anche una provocazione, visto appunto il tuo, la tua spiegazione, insomma, riguardo al tuo approccio nei confronti dello strumento e della musica in generale. Quindi anche era un po' una domanda, una dichiarazione provocatoria, diciamo. Sono stato soddisfacente. Sei bravissimo. Grazie. Veramente, ma ti chiamerò più spesso. Grazie, grazie. Allora, 23:31 minuti in questo momento. Abbiamo sforato, però non fa niente. Insomma, è finita questa ennesima puntata. Io dico ennesima perché ormai ho perso veramente il conto. Però sicuramente ad aprile Radio Noiz farà un anno. Quindi poi organizzeremo un mega party per quella serata. Un sacco di microfoni in giro per lo studio. Un sacco di gente, vabbè. Tutto da vedere, da organizzare. Comunque vi ringrazio di essere stati in ascolto questa serata dedicata alle vibrazioni sarà più basse. Sarà un dirty party. E con questo vi lasciamo. Vi lascio, vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo radionoize@hotmail.it per raggiungere il contatto MSN, anche se adesso non si utilizza veramente più perché è brutto vedere 75 persone collegate su Facebook e 2 su MSN. Però è così. Io sono su MSN e tu non sei su MSN e sei bravissimo per questo. Radio Noize webcast per raggiungere il profilo Facebook. Uno all'antica. Adesso sei uno all'antica. Sì. Non si sarebbe anche mai detto. Anche fiero di esserlo. Forse dice uno all'antica e sei su MSN. Ebbene, sei diventato vintage. Va bene, grazie a tutti di essere stati in ascolto. Ci sentiamo lunedì prossimo. Voi restate sempre sintonizzati su Transizione di Fase. Nuovi programmi stiamo attendendo che arrivano. Ci sono già Banda Armata e Mozilla Bros che vanno in onda il giovedì pomeriggio e il martedì pomeriggio e il giovedì sera. Nuovi programmi stanno arrivando, quindi restate sintonizzati su Transizione di Fase. Vi ricordo l'appuntamento con Radio Noiz lunedì sera alle 21:30 ogni maledetto lunedì. E vi lascio con i Tool. Buonanotte a tutti. This old world. Why can't we be? hopeless liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me.